Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire al nostro ospite di stasera, Andrea dei Temponauts. Allora, sono 98,6 per la bassa veronese e le zone della Lessinia e 101,5 per Verona città e rimanente provincia. Radio RCS la potete ascoltare anche in streaming nel sito www.radiorcs.it. Seconda parte in cui andiamo un po' avanti nel tempo e ci fermiamo nei primi anni 80, quando un fenomeno come il revival Garage 60s prese piede nel giro underground americano ed inglese. Primo brano era dei Chesterfield Kings, formazione guidata ancora oggi da Greg Prevost e che si chiamava Stop, dall'omonimo disco del 1985. Dei Chesterfield Kings ci lasciai dire sicuramente qualcosa. Ma i Chesterfield Kings, più che altro, a dire la verità, mi sono dovuto documentare dopo, perché tante volte ci hanno un po' legato a questo nome, ma i Chesterfield Kings e tutte queste cose. Io sinceramente non li conosco tantissimo, apprezzo molto però la loro interpretazione del garage, che mi sembra molto puro, molto un gran tiro, insomma, molto sincero, sono veramente forti. Parlando di esibizioni live, di recente avete suonato al leggendario Cavern Club di Liverpool, raccontateci questa intensa esperienza. Ma è stato una tre giorni indimenticabile, insomma. Siamo stati contattati da Dave Bush, che è questo simpaticissimo americano che organizza l'International Pop Overt Row, che quest'anno era la settima edizione, e si è detto: ragazzi, mi piace il vostro disco, verreste a suonare al Cavern? E noi ovviamente abbiamo detto sì. E abbiamo fatto un set proprio sul palco storico del Cavern Club, poi avevamo un set la domenica pomeriggio, cioè la domenica sera, in un altro palco del Cavern che si è allargato in questi anni a un palco per, diciamo, gli eventi più grandi, più significativi. E poi è successo di tutto, quindi c'è stata una band del giorno dopo che ha dato buca e ci hanno proposto un altro set in un barettino, ci siamo andati, ma è stata una cosa molto bella, è un ambiente in cui la musica ha tutto un altro significato rispetto all'Italia e ai locali che siamo abituati a vivere noi. Non so, c'è la gente che beve, ti ascolta, ti fa le foto, balla sui tavoli, ti chiede un sacco di cose che ne capisci la metà perché non sai bene l'inglese, però c'è entusiasmo e, indipendentemente da chi ci sia a suonare, passi, vai dentro al bar, bevi una birra, ascolti e godi di questi disperati come noi che sono in giro per il mondo a suonare. È stato fantastico, è praticamente un pezzo di storia della musica che ci siamo portati a casa. E magari fosse anche così in Italia. Direi di sì, speriamo nel futuro. Dello stesso anno è il disco di esordio dei Fuzztones, la formazione di Rudy Protrudi, famosa per la sua iconografia horror nel brano Cinderella. We'll be right back. I Fuzzstones vengono spesso in Italia a suonare. Cosa trae ancora di questa band? Beh, questa band credo che abbia ancora tantissimo da dire. Non ha mai perso la sua identità, non si sono mai lasciati andare a commerciale, a influenze negative, e mantengono la loro energia di sempre. Quindi tanto di cappello ai Fuzzstones e al loro capo, insomma. Oltre all'esperienza del Cavern Club, quale altre soddisfazioni siete riusciti ad avere dalla vostra attività musicale? Ma soddisfazioni personalmente tantissime. Non abbiamo... Beh, il Cavern sicuramente come esibizione live era il nostro fiore all'occhiello, e penso che lo sarà anche nei prossimi anni. E vabbè, abbiamo suonato un mesetto fa al Miami Festival a Milano, è stato comunque un bel evento. Grandi esibizioni live non ne abbiamo in curriculum, però grandi soddisfazioni dalle recensioni, dalle riviste, dal web. Abbiamo contatti che ci siamo guadagnati noi con le nostre fatiche in tutto il mondo. Abbiamo radio che ci mandano in Thailandia, in Giappone, in Germania, negli Stati Uniti, in Inghilterra, ovunque, in Australia. Il nostro disco, con poche centinaia di copie, gira il mondo. E la cosa fantastica è che cioè la nostra energia e il nostro crederci, e poche persone che ci hanno veramente dato una mano, come i ragazzi di Retrophobic. E comunque con poco e con grande forza si possono veramente fare delle grandi cose. Chiudiamo la parte con Dream Syndicate, questo combo americano guidato da Steve Wynn, sigla sull'importante esordio con il disco The Days of Wine and Roses. Fortemente influenzati dai Velvet Underground, li ascoltiamo ora con il brano Tell Me When It's Over. Dopo la pubblicità, riascolteremo i brani tratti dal disco A Million Year Picnic dei Tamponauts. Kind of answer.